Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo molto di risparmio degli italiani. Oggi presentato il rapporto annuale del Centro Einaudi assieme al gruppo bancario Intesa San Paolo, in una giornata in cui, a proposito di risparmi ma soprattutto di investimenti, la borsa adesso è negativa di un 1,20%, come Francoforte, Parigi perde lo 0,80%, Londra meno 0,33%, l'America meno 1,1%. Tra i titoli segnalo oggi bene Tenaris più 1,90, Saipem più 1,80, Boots Unicem più 1%, come Ferragamo, Tod's più 0,90%. Negativa invece Iux del 3%, come la Popolare Emilia Romagna, la Pop Milano del 2,80, Autogrill meno 2,60, il 2,5% lo perde il Banco Popolare, ma anche Azimut, il 2,30% è il calo sia di Prismian che di Intesa San Paolo e di A2A. Euro leggermente in recupero a 1,09 rispetto a quota 1,08. Oggi chiaramente si è un po' fermato, arrestato l'entusiasmo, chiamiamolo così, per l'accordo con la Grecia, qualche presa di beneficio soprattutto su alcuni titoli bancari che ieri molto erano cresciuti. Poi invece ci sono anche notizie specifiche. Iux per esempio oggi ha dato via libera l'assemblea dei soci alla fusione con Net-a-Porter, che è il principale competitor sullo shopping online di lusso. E vabbè, di questo parleremo. Parleremo anche appunto del rapporto Einaudi, che vede da un lato un miglioramento del risparmio degli italiani. Stiamo parlando sempre in termini relativi, cioè rispetto al 2012 c'è stata una crescita delle persone che dicono di essere riuscite a risparmiare qualcosa. Il peggioramento invece anticipo subito il rapporto, è nella riduzione di quella che si chiama classe media. Il dato è impressionante se si prende lo spettro dal 2007 al 2015, di quante persone siano chiaramente purtroppo non sono scivolate verso, diciamo, la classe medio bassa, non sono certo salite nella classe medio alta. Ma questa è solo una parte del rapporto che analizzeremo. Poi, come sempre, i mercati finanziari e poi, come promesso, da un lato la riforma già chiara, visto che è passata venerdì scorso all'Aula della Camera, la riforma della pubblica amministrazione, adesso va al Senato, ma non dovrebbero esserci sorprese. E questo è un appuntamento, una scadenza fondamentale per il governo già da settembre, anche perché poi è una riforma che prevede tantissimi decreti attuativi, per cui è una legge delega, come si dice in gergo. Per diventare realmente operativa ci vorranno dei decreti che attuino quanto prevede la legge. Ma allo stesso modo anche la riforma annunciata dal Premier Renzi nel fine settimana, una mossa da 50 miliardi di euro in 5 anni, quello che si chiama il contratto dell'Expo. Ormai, visto che Renzi l'ha annunciato nell'assemblea del PD all'Expo, tagli di imposte per 50 miliardi. I due fronti, perché insomma, se si vuole impostare anche questo secondo aspetto bisogna farlo subito dopo l'estate, saranno oggetto della seconda parte di questo programma. 349-238-6666 per i vostri sms e poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, come sempre nelle notizie in breve partiamo dall'economia internazionale. Partiamo dall'oro, perché abbiamo parlato moltissimo di petrolio in questi mesi. Oggi è in leggero rialzo a 50,45 dollari a New York. Ma ricorderete che invece dell'oro parlavamo quasi tutti i giorni nel momento peggiore, speriamo di non sbagliarci, di questa crisi. 2009-2010 era diventato, è da sempre un bene rifugio, e lì crebbe con anche nel 2011, e poi quando vi fu l'attacco ai debiti appunto tra fine 2011 e inizio 2012, l'attacco all'euro, l'attacco speculativo ai debiti di alcuni paesi dell'euro, e raggiunse quotazioni record. Bene, ebbene, nel frattempo, in questi anni, è continuato a calare, non cala mai tantissimo, però è arrivato a 1103 dollari l'oncia praticamente questa mattina, poi è risalito a 1108 dollari. 1103 dollari l'oncia sono il livello più basso dal 2002. Il dato, questo minimo, è stato toccato questa mattina sui mercati asiatici. E comunque poi appunto un leggero rimbalzo, lo dico perché insomma, ogni tanto è giusto anche occuparsi di un metallo che è in realtà un grande bene rifugio. I motivi per cui l'oro abbia toccato minimi che non vedeva dal 2002 li spiega nei 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. Oltre i limiti della luce c'è la tua infinita creatività. Con il nuovo smartphone Huawei P8 fotografi anche con pochissima luce. Huawei, make it possible. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Dalla febbre dell'oro alla fuga dall'oro. Se un fenomeno sarà ricordato di questi anni di paure finanziarie e di esuberanze irrazionali, sarà proprio la parabola del metallo giallo, che da bene rifugio per eccellenza negli anni della crisi, sembra essere oggi snobbato come un bene di serie B. Il minimo di 5 anni toccato tra ieri e oggi ha portato infatti il prezzo per oncia a poco più di 1100 dollari, in pratica la metà dei quasi 2000 dollari l'oncia con cui veniva scambiato nel settembre del 2011, l'anno peggiore della crisi finanziaria, cominciata nel 2008 con il fallimento di Lehman Brothers. Certo, chi ha comprato oro nel 1999 ad appena 230 dollari l'oncia può ancora brindare ai forti guadagni accumulati, ma ora farebbe bene anche a considerare l'ipotesi di vendere. Soltanto ieri gli speculatori hanno venduto sul mercato 33 tonnellate d'oro in appena 2 minuti di contrattazioni, una sorta di isteria collettiva che ha messo sul banco delle vendite lingotti d'oro per un valore complessivo di 1.500 miliardi di dollari. La fuga dall'oro, secondo gli esperti, non è ancora finita. L'onda ribassista, innescata dalla ripresa dell'economia americana e dalla voglia di rischio che dilaga sui mercati grazie all'abbondanza di liquidità delle banche centrali, potrebbe durare altri 6 mesi, fino a quando cioè la banca centrale americana, la Federal Reserve, non alzerà i tassi di interesse per stabilizzare la crescita e placare l'esuberanza irrazionale generata da troppi anni di soldi facili. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Restiamo in tema di economia internazionale. Oggi la Federal Reserve ha lanciato, la Banca Centrale Americana, un allarme sulla capacità delle grandi banche americane di far fronte a possibili scenari di stress finanziario. Anche gli Stati Uniti, anche la Federal Reserve infatti fa gli stress test. Tra le 18 banche incluse, diverse continuano infatti a dimostrarsi carenti su più fronti. E in particolar modo le discrepanze più forti si sono avute tra gli stress test condotti dalla Banca Centrale Americana, dalla Federal Reserve, e quelli condotti internamente su due colossi come Goldman Sachs e JP Morgan Chase. Goldman Sachs ipotizzava perdite pari a 6 miliardi e 600 milioni in condizioni di stress, secondo invece la Federal Reserve queste perdite arriverebbero a 20 miliardi. Ancora più ottimista negli auto stress test, nella sua autoanalisi, JP Morgan, appena 200 milioni di perdite contro i 32 miliardi di perdite stimati dalla Federal Reserve nello scenario peggiore. Questo vanno a vedere gli stress test, un po' come i test che si fanno sulle automobili, vanno a vedere come reagirebbe la banca di fronte allo scenario peggiore possibile. Sempre da New York arriva la notizia che l'amministratore delegato di Nike, Mark Parker, a lui è stato offerto un bonus in azioni di 30 milioni di dollari a patto che resti alla guida del colosso dell'abbigliamento e delle calzature sportive per almeno 5 anni. Una cifra 10 volte superiore a quanto il manager ha ricevuto negli ultimi anni. Si tratta di azioni vincolate per Parker, che è al vertice della Nike dal 2006. Invece una bufera quella che ha travolto tutti i vertici della Toshiba, il colosso giapponese, perché si è scoperto che i conti del gruppo erano stati gonfiati dal 2008 ad oggi per un importo complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di dollari. L'amministratore delegato Isao Tanaka ha annunciato le dimissioni assieme a quello del vicepresidente di 8 dei 16 componenti del consiglio di amministrazione, e adesso l'agenzia di rating Standard & Poor's ha messo sotto osservazione il voto di Toshiba, è una tripla B, dopo appunto aver scoperto che ha falsificato sostanzialmente per 1 miliardo e 200 milioni i bilanci. La battuta verrebbe facile a proposito di bilanci falsificati. In realtà parliamo di Grecia, parliamo della Grecia attuale. Il governo greco oggi ha depositato in Parlamento il progetto di legge sulla seconda parte delle misure di austerità previste dall'accordo con i creditori, è quello che prevede l'introduzione della direttiva europea del 2013, quella adottata durante la crisi a Cipro, il bail-in, che garantisce depositi bancari fino a 100.000 euro. Ma allo stesso modo in queste misure c'è anche la riforma del codice di procedura civile per semplificare i processi e ridurne i costi. Domani si voterà ad Atene ed è un nuovo test per il governo del premier Alexis Tsipras. Oggi in un'intervista alla CNN l'ex ministro delle finanze Varoufakis ha detto Tsipras non aveva altre scelte, doveva scegliere se suicidarsi o essere giustiziato. Prime Minister Tsipras was faced with an incredibly hard choice. Il primo ministro Tsipras ha dovuto fronteggiare una durissima scelta quando si è recato all'Euro Summit una settimana fa. Di fatto, ha dovuto scegliere se suicidarsi o essere giustiziato. Questo è un enorme stigma sulla storia economica europea. Nessun governo dovrebbe essere trattato in quel modo in un consesso di nazioni democratiche. A quel punto, proprio perché era una scelta così dura, le argomentazioni erano egualmente forti da ambo le parti. Tsipras ha deciso che sarebbe stato meglio per il popolo greco che il governo stesse al suo posto e implementasse un programma con cui esso stesso non era d'accordo. Persone come me hanno pensato che fosse più giusto e sul lungo termine più appropriato dimettersi. Ecco perché mi sono dimesso, ma riconosco che le sue ragioni fossero fondate quanto le mie. È sempre Varoufakis a cui sono state rivolte molte critiche, per non solo per l'approccio inteso come contenuti, ma anche per le modalità nel trattare, nell'avere esasperato anche a livello di rapporti personali e trattative a suo tempo, e quindi essere diventato un problema proprio quasi nei rapporti, so che non dovrebbe essere così quando tratti di temi come il debito greco, ma nei rapporti interpersonali. Varoufakis ha ammesso in questa intervista: ho commesso anch'io errori, ma la Troica comunque non avrebbe voluto un accordo onorevole e vantaggioso per tutti. Il popolo votò no a questa estensione delle pretese europee, ma nella notte del referendum mi fu chiaro che la posizione del governo sarebbe stata di dire sì. Perciò è molto difficile per me, anche se mi piacerebbe, assumermi la responsabilità di una decisione sulla quale ho rassegnato le mie dimissioni. Ci sono stati errori, certamente. Bisognerebbe avere un'ostinazione inverosimile per sostenere che non sono stati commessi errori, specialmente nei 5 mesi di intensissime negoziazioni con i creditori, che non erano particolarmente interessati a condurre una sessione di negoziazioni in maniera razionale. Abbiamo fatto errori, non c'è dubbio, e io stesso mi ritengo responsabile per una parte di questi. Ma la verità è che la potentissima troica di creditori non era interessata ad arrivare ad un accordo di mutuo beneficio che fosse giudizioso ed onesto. Se guardate al modo in cui si sono comportati, dal primo giorno in cui abbiamo assunto il potere, il 25 gennaio, fino alla settimana scorsa, sono sicuro che un'analisi attenta rivelerà che dico il vero. Erano molto più interessati ad umiliare e rovesciare questo governo, o almeno essere sicuri che cadesse da solo a causa delle sue politiche, di quanto fossero interessati ad un accordo che assicurasse loro di riavere indietro i loro soldi. Ecco, Qualcuno mi chiede se mi piace anche l'inglese di Varoufakis. Sì, insegnava in Texas, è un ottimo inglese, ma ho capito la battuta su Draghi. Draghi più, l'inglese di Draghi è un inglese più serio, mettiamolo così, per restare sulle battute. Comunque, le compagnie di navigazione greche hanno annunciato un aumento del 10% oggi su tutte le tariffe dei traghetti passeggeri che operano tra il continente e le isole, mentre le tariffe per i veicoli resteranno invariate. Questo è l'effetto anche del passaggio dell'aliquota IVA dal 13% al 23%. Le tasse e le tariffe per i veicoli già nella fascia del 23 sono quindi rimaste invariate. Secondo le compagnie di trasporti, questo rincaro porterà a una riduzione tra il 20 e il 30% del traffico passeggeri, con una perdita di 2 milioni e mezzo, 3 milioni di biglietti. Mi sembra un po' tanto, visto che stiamo parlando del 10% in più. Avere un crollo del 30% mi sembra che facciano, se posso permettermi, un po' di terrorismo le compagnie nei trasporti. Invece è interessante lo studio che ha condotto la Camera di Commercio di Monza e Brianza, perché qualcuno ricorderà l'idea, a mio avviso molto offensiva e umiliante, della Finlandia nel 2011, quella che disse: beh, la Grecia può dare come garanzia per il suo salvataggio i beni dello Stato come l'Acropoli, il Partenone e alcune isole. Ripeto, quello fu uno dei passi falsi nelle trattative, perché non si può umiliare un popolo, qualunque diciamo siano i suoi problemi economici. Detto questo, oggi la Camera di Commercio, l'ufficio studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza stima quello che è il valore del brand Grecia, delle isole greche. Attenzione, non parliamo del patrimonio tangibile, nessuno può vendere un'isola greca, ma l'immagine, la visibilità, la reputazione. Insomma, il brand di Creta vale da solo più di 17 miliardi, quello di Rodi con tutte le isole del Dodecaneso varrebbe 7 miliardi, l'arcipelago delle Cicladi tra Mykonos e Santorini stimato in 5 miliardi, Zacinto, Itaca e Corfù, le altre isole dello Ionio, assieme 6 miliardi e 300 milioni, a cui si aggiunge circa 1 miliardo come valore del brand delle isole del nord dell'Egeo, tra Lesbo, Samo e Chio, complessivamente 40 miliardi di euro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, oggi, adesso parliamo dell'Istat e dei prezzi che l'Istat vede aumentare più per la fascia più alte rispetto alle fasce più basse, adesso lo spiegherò, ma parliamo anche del risparmio degli italiani per un appuntamento annuale. Sì, appunto, è un appuntamento annuale, ogni anno fotografa il risparmio degli italiani, ma va anche oltre. Il Centro Einaudi assieme al gruppo Intesa San Paolo, ricordo solo che l'anno scorso il titolo del rapporto fu Famiglie e imprenditori, la ripresa in arrivo, l'anno prima nel 2013 risparmiatori e risparmiatrici, i primi segnali di fiducia. Uno può andare indietro nel 2012, le difficoltà del risparmio e le nuove priorità delle famiglie. Il titolo di quest'anno è ambivalente, diciamo così, perché dice: risparmiatori, classe media, si torna a guardare al futuro. Ora, detto così, è un titolo tutto positivo. In realtà, leggendo poi all'interno del rapporto oggi presentato, c'è più di un distinguo, ci sono varie differenze. Ne parliamo con il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, nel rapporto che oggi avete pubblicato, il titolo è risparmiatori, classe media, si torna a guardare al futuro. La nota positiva, partiamo da lì, riguarda, se ho ben capito, l'aumento del numero di risparmiatori rispetto al 2012? Sì, torna a salire finalmente la percentuale di famiglie che riesce a risparmiare. E quest'anno nel 2015 è risalita al 43,7%, era scesa ad un minimo del 38,6% nel 2012, 2013 e 2014 non avevano rappresentato grandi variazioni, quindi il grosso della differenza di questi 5 punti percentuali di incremento delle famiglie risparmiatrici è avvenuto tra il 2014 e il 2015, quindi stanno guardando al futuro, nel senso che tornano a pensare di poter ricostituire dei risparmi che nel periodo peggiore della crisi sono stati erosi. Quindi quando voi dite risparmiatori, attenzione, non stiamo parlando di risparmiatori che investono, dite solo la quota di italiani che riesce e che ha dichiarato nel sondaggio effettuato dalla Doxa tra gennaio e febbraio del 2015 a 1076 famiglie, quindi i dati sono di gennaio e febbraio, che la quota che ha detto sì, sono riuscito a risparmiare qualcosa, il 5% in più. Tra l'altro le risposte su, insomma, i mercati finanziari nel 2014 sono cresciuti, non tutti i titoli, ma in generale i mercati sono cresciuti. Questo ha aumentato un po' la ricchezza finanziaria delle famiglie investite in borsa? Sì, questo è un dato molto rilevante, perché mentre i redditi sono rimasti, i redditi da lavoro sono rimasti sostanzialmente stagnanti o addirittura in leggera flessione, le famiglie hanno beneficiato, quelle naturalmente che avevano un patrimonio piccolo o grande che fosse, hanno beneficiato di del rialzo dei corsi obbligazionari e del rialzo dei mercati azionari. Da questo punto di vista, per quanto riguarda le azioni, è però un po' paradossale che l'attenzione per il mercato azionario italiano, ad esempio, si è rivelata più forte da parte degli investitori stranieri che non di quelli italiani. Oggi gli investitori esteri hanno il 42% della borsa valore di Milano, mentre la quota delle imprese posseduta direttamente o indirettamente tramite fondi, compagnie di assicurazione e fondi pensione si ferma al 15%. Quindi l'estero ha creduto nella svolta dell'Italia più ancora degli italiani. Ah, e questo è importante. C'è poi la parte invece meno positiva, anzi diciamo tutta negativa, perché voi dite, come nel titolo, risparmiatori, virgola, classe media, si torna a guardare il futuro. In realtà, se uno prende la percentuale di italiani il cui reddito si collocava nel ceto medio, si va dal 57,1% del 2007, cioè l'anno prima del grosso scoppio della crisi, al 38% di adesso. Vuol dire che sostanzialmente 7 milioni di italiani non sono più nella classe media, e non perché siano saliti, ahimè, magari nella classe alta, ma perché sono scesi nella classe medio-bassa. Sì, si è bloccato l'ascensore sociale, o meglio, l'ascensore sociale va soltanto verso i piani più bassi e ha smesso di salire. Il ceto medio, che è diciamo il fulcro della realtà delle famiglie italiane, si è assottigliato, ha perso parecchi punti percentuali ed è scivolato verso le classi meno abbienti o addirittura verso le classi povere. Dal ceto medio verso gli abbienti o insomma le famiglie più facoltose il movimento è stato minimo, per quello diciamo un ascensore sociale che è sceso di alcuni piani senza invece permettere la risalita. E questo è il famoso ascensore sociale che voi definite diciamo, bloccato. Tra l'altro su questo, De Felice, voi avete analizzato, come ogni anno, ci mancherebbe, anche quello che è il consumo dei risparmiatori italiani, in questo caso specificatamente il tenore di vita. Ora, dov'è che hanno tagliato? È chiaro che i dati sono aggregati, ma andrebbero disaggregati, però in generale dov'è che hanno tagliato di più le spese degli italiani, a maggior ragione quelli che sono scivolati in una classe più bassa da quando è scoppiata la crisi? Guardi, hanno tagliato sul tempo libero, sulla sanità, sulle vacanze, sull'acquisto di beni per la casa e sugli aiuti domestici. Diciamo che hanno compresso soprattutto le spese non indispensabili, però una nota positiva in questa specie di riqualificazione della spesa, o se vogliamo chiamiamola una spending review dei bilanci familiari, sono state preservate le spese per i figli e la formazione. Quindi qualcosa che assomiglia molto agli investimenti. Forse il governo italiano, se mi permette la battuta, potrebbe prendere un po' esempio dal buon padre di famiglia, cioè tagliare il meno necessario o il superfluo, anche se andare in vacanza è molto bello per tutti naturalmente, ma puntare sulla formazione e sulle spese per i figli. Eh sì, i dati che voi fornite infatti sono il 25% tagliato sull'acquisto di automobili, 60% su vacanze, alberghi e ristoranti, 35% sugli spettacoli, 24% sulle cure mediche private. Un'ultima domanda, dottor De Felice, visto che oggi l'Istat fotografa prezzi ancora in calo in generale per le famiglie più povere, mentre aumentano i prezzi per le famiglie più ricche, le famiglie con minore spesa mensile hanno visto i prezzi in calo dello 0,2% rispetto al 2014, quelle con livelli di spesa più elevati hanno visto invece dei prezzi aumentare dello 0,3%, quindi tre volte più dell'inflazione che allo 0,1%. È chiaro che sono diverse abitudini di consumo e quindi sulle famiglie con minore capacità di spesa i prezzi dell'energia, che sono ancora in flessione, incidono più del doppio rispetto alle famiglie che spendono di più, mentre i rincari per esempio dei servizi ricreativi, culturali e altri beni industriali non energetici, visto che sono più utilizzati da persone con una buona spesa, buona e alta spesa, incide di più. Dicevo, il sondaggio l'avete fatto tra gennaio e febbraio. Secondo lei, con quello che è successo nel frattempo, soprattutto la crisi greca, sarebbe cambiato oppure la vostra sensazione è che comunque queste variabili siano di medio termine? Ma noi pensiamo che se il sondaggio fosse fatto questa settimana potrebbe essere migliorato rispetto ad allora. Certo, se fosse stato fatto alla fine di giugno, nel pieno della crisi greca, con il referendum chiamato da Tsipras, probabilmente avremmo avuto dei dati peggiori. È molto difficile guardare alla singola settimana, al singolo momento. Credo che quello che sia importante è vedere la differenza rispetto agli anni precedenti. Il trend è di un generale miglioramento, anche se va detto permane una forte cautela, una forte prudenza da parte delle famiglie italiane, legate soprattutto ad un clima di incertezza. Se guardiamo le motivazioni che sono sottostanti al risparmio, la motivazione più forte è quella di far fronte agli imprevisti, far fronte all'incertezza, incertezza sul posto di lavoro, incertezza sulla situazione economica e via dicendo. Quindi un quadro più sereno da questo punto di vista permetterebbe di trasformare il reddito in maggiori consumi. E quindi il fatto di questi risparmiatori, che sono, vedo molti messaggi, per carità sono il 5% in più del 2012, però è importante quanto lei dice, un conto è diventare risparmiatore, cioè rispondere alla domanda quest'anno stai risparmiando sì, altra cosa è rispondere alla domanda quest'anno stai consumando più dell'anno scorso, perché la differenza la fanno soprattutto le attese per il futuro. E quindi da risparmiatore a consumatore il passo non è breve, non è automatico e non è scontato. Grazie al capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Grazie, a risentirci. Buonasera. Adesso andiamo in pubblicità. Vedo che alcuni dicono: ma come 54% ceto medio? Se guardiamo i dati delle dichiarazioni dei redditi, sono tutti poveracci, sì, lo sappiamo della discrasia per essere buoni che c'è, adesso addirittura la stima è di 300 miliardi di nero in questo paese, che si somma a quanto abbiamo raccontato anche nei giorni, nelle settimane scorse, con la difficoltà dell'Agenzia delle Entrate a operare, difficoltà operativa, ma il ceto medio viene classificato in base alla spesa in questo caso. Non in base alla dichiarazione dei redditi, perché altrimenti, ahimè, avremmo, soprattutto per i lavoratori autonomi, un paese in cui il ceto medio, se guardiamo la dichiarazione dei redditi, non esiste praticamente. Comunque, meteo, pubblicità e poi la borsa. La vicenda, appunto, visto che parlavamo di fisco, l'annuncio del governo, o meglio del Premier Renzi nel fine settimana, e la riforma della pubblica amministrazione. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molti messaggi ancora sulle fasce di reddito, sul patrimonio degli italiani, però dobbiamo andare avanti adesso e parlare di borsa. Meno 1,32% a Milano, meno 1,12% a Francoforte, meno 0,70% a Parigi, Londra meno 0,36%, il Dow Jones in America perde in questo momento l'1,07% nel giorno in cui il nostro spread è stabile a 113 punti contro i 114 di ieri, il rendimento del BTP a 10 anni è all'1,88%, quindi la situazione dal punto di vista del debito è assolutamente tranquilla oggi. Nel giorno in cui, al di là dell'oro, come raccontavamo, c'è stato più di un realizzo sui titoli dopo, insomma, la corsa, o meglio la fiammata di ieri. Ne parliamo, come ogni tanto facciamo, con operatore del mercato dei capitali, dottor Filippo Diodovic, strategist per IG Market Italia. Buonasera. Buonasera. Dicevo, giornata un po' fiacca oggi mi è sembrata, soprattutto le banche, Pop Emilia Romagna meno 3%, Popolare Milano meno 2,70%, Intesa San Paolo meno 2,30%, Banco Popolare meno 2,1%, qualche realizzo o c'è di più? Sì, no, è più una ragione di presa di beneficio. Gli indici hanno guadagnato tantissimo, soprattutto dopo l'accordo in Grecia, l'entusiasmo si è un po', diciamo, è un po' diminuito, e questo ha portato soprattutto su realizzi per quanto riguarda sia i bancari sia i titoli del risparmio gestito, che erano quelli che avevano più guadagnato dopo l'intesa tra creditori internazionali e l'amministrazione Tsipras. Ancora no, devo rispondere a un ascoltatore che riguarda la dichiarazione dei redditi, dice: ma lei non considera gli ammortamenti? Io non ho mai accusato gli imprenditori di evasione, ho detto che le partite IVA, i lavoratori autonomi in questo paese hanno delle dichiarazioni dei redditi. Andate a guardare il rapporto di ieri su tutti i giornali, in cui sostanzialmente c'è una fortissima discrepanza tra le dichiarazioni dei redditi da un lato e i consumi degli italiani dall'altro. Tutto qua, ma non è che lo stabiliamo noi, l'ultima stima arriva a ipotizzare tra i 200 e i 300 miliardi di fatturato che sfugge al fisco, per cui. Ma andiamo avanti con i temi di borsa. Al di là delle banche, IUX oggi invece perde il 3,1%. Sì, IUX oggi Oggi l'assemblea dei soci, sì, ha dato via libera alla fusione, con Net-a-Porter, e il mercato non l'ha apprezzata particolarmente. Bisogna dire che IUX comunque negli ultimi tre mesi era tornato su livelli interessanti, insomma, sopra i 30 euro, sembra più quasi un Stellon News, quindi anche se, insomma, è una fusione molto importante, visto che Net-a-Porter era il principale concorrente fino a qualche anno fa di questo settore dell'e-commerce russo. Certo che sta continuando ad aumentare la competizione in questo particolare comparto, bisognerà vedere quindi come si procederà con questa importante fusione. Allora, al di là dell'oro invece vediamo altri titoli che non siano, diciamo, nel gruppo di chi ha visto prevalere i realizzi. Saipem più 1,76%, Tenaris più 1,50%, Ferragamo più 0,90%. Qui c'è attesa su Ferragamo sui conti in Europa. Abbiamo visto anche dei giudizi positivi, qualche invece criticità, o meglio dubbio in più, se ben capito, sulle prospettive di Ferragamo in Asia, Cina in primo luogo e Russia. Sì, ci sono stati molti giudizi per quanto riguarda le banche d'affari, che hanno portato un po' Ferragamo a muoversi notevolmente. Si pensa infatti che possa avere delle forti performance in Europa, molti dubbi per quanto riguarda l'Asia, e poi ecco, visto che Ferragamo ha quasi il 15% del fatturato in Russia, anche la Russia che sta prendendo, ma dipende molto dalle quotazioni del petrolio per l'andamento dell'economia, rimane un forte punto interrogativo. Al momento il titolo comunque oggi ha evidenziato un'ottima performance, noi crediamo che possa comunque evidenziare, è uno dei tre titoli che comunque consigliamo nei nostri portafogli, quindi è un titolo che noi possiamo, crediamo soprattutto che nel secondo semestre possa evidenziare una performance positiva. Ancora, bene, appunto, oltre ai titoli già citati, TOZ più 0,80, Mediaset più 0,60, Eni invece invariata. Tra i migliori e peggiori in assoluto, cito EMS più 20,60, Mondo TV Swiss più 12,70, Meridie più 10,50, Poligrafici Printing più 6,15. Invece, tra chi cede di più, Novare meno 6%, Risanamento meno 5,70. Abbiamo visto dei bei movimenti invece su Astaldi. Sì, Astaldi diciamo che oggi beneficia della nuova commessa che ha vinto per un valore superiore a 1 miliardo di euro per la realizzazione dell'autostrada, un pezzo d'autostrada tra Mosca e San Pietroburgo. Sicuramente è un titolo molto interessante per quanto riguarda, che però poi ha ritracciato nel finale, no? Perché ha fatto meno 0,35% nel finale, che infatti ha più o meno perso tutti i guadagni, però è un titolo che se noi guardiamo da inizio gennaio, quando valeva al di sotto dei 5 euro, oggi vale insomma intorno a 8,60 euro, quindi siamo sicuramente un titolo che ha molto performato, ha avuto delle performance molto positive nel corso dell'anno, quindi insomma insieme anche a Buzzi Unici, insomma il titolo del settore delle costruzioni è sicuramente un settore molto molto interessante. E invece Fiat Chrysler, dopo un tentativo seguito anche alle possibili indiscrezioni di possibili cessioni della Magneti Marelli e del collocamento di Ferrari, poi Fiat ha chiuso in negativo, comunque meno 0,77. Sì, su Fiat insomma ci sono tantissimi dossier aperti, sia Magneti Marelli, ma sia anche diciamo anche insomma, le città anche più piccole, insomma Texid, Comau, insomma, si parla veramente tanto di possibili anche dismissioni di attività per finanziare gli importanti investimenti che il piano industriale di Marchionne vuole portare avanti, soprattutto insomma anche della conquista di quote di mercato, soprattutto in Asia per Chrysler, per il marchio Jeep. Noi crediamo insomma che si possa, che adesso il punto principale sia l'IPO di Ferrari, che molto probabilmente avverrà tra settembre e ottobre, e il titolo però comunque è un titolo, una storia molto interessante di borsa, noi crediamo che possa ritornare insomma anche sopra i 15 euro, e insomma anche nel secondo semestre possa anche allungare ulteriormente. Al momento insomma le strategie di Marchionne sono state molto positive, quindi insomma crediamo che possa continuare, ecco, bisogna stare attenti ecco, comunque a finanziare questi investimenti, quindi per ecco, le cessioni di importanti attività, importanti asset può essere determinante. Grazie Filippo Diodovic, strategist per AG Market Italia. Il traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi sui dati presenti ieri su molti giornali sull'evasione fiscale, le dichiarazioni, la fascia. Ritorneremo, non possiamo parlare di tutto. Comunque, non devono, alcuni scrivono: ma è meno male che c'è l'evasione, così restano i consumi. Attenzione, allora, che lo Stato sprechi i soldi, o meglio, utilizzi male i soldi, vedremo poi con la spending review, è un dato di fatto. Però, attenzione, che non si può semplicemente dire che siccome c'è il nero, questo tiene su l'economia, perché e non stiamo parlando dell'artigiano, del commerciante che non riesce a stare dentro gli studi di settore. La somma dell'evasione italiana è così alta che poi va all'estero, va per consumi diciamo di altro genere, non è che mantenga i consumi. Magari fosse diciamo un'evasione così marginale che permetta ad alcune categorie di starci dentro. Il problema è che abbiamo un'evasione che non è uguale nel resto d'Europa e che non produce maggiori consumi, anzi produce o si orienta verso paradisi fiscali o comunque produce consumi di lusso e magari li produce all'estero, per cui attenzione a questo. Comunque parliamo invece della riforma della pubblica amministrazione, perché avevo annunciato il tema e riabbiamo ospite quindi il collega del Sole 24 Ore, Davide Colombo. Buonasera Davide. Buonasera a voi. Sento un po' basso, me l'alzate per favore Colombo. Dunque, Iniziamo adesso, poi continueremo dopo il GR24. Venerdì abbiamo commentato il fatto che sia passata con 253 sì, 93 no. Adesso va al Senato, ma non dovrebbero esserci sorprese in terza lettura. Prima cosa da chiarire, Davide, questa è una legge delega, quindi quanti decreti attuativi ci vorranno? Dunque, sono circa una ventina i decreti attuativi previsti, per complessivamente sono 15 deleghe e dovrebbero essere articolate, attuate con una ventina di decreti attuativi. Ora, 20 decreti attuativi vuol dire che le parti forse più importanti di questa riforma, se tutto va bene, arriveranno tra ottobre e novembre? Dunque, non tutti i decreti, chiaramente, ma diciamo... Ma diciamo che c'è l'intenzione di varare dei pacchetti di decreti, almeno così è stata annunciata, di varare dei pacchetti di decreti legislativi celermente a settembre. L'obiettivo, dicevi tu prima, del passaggio al Senato, il testo è stato trasmesso oggi e dovrebbe essere appunto ora incardinato in agenda già dell'Aula, perché non c'è più un passaggio in commissione evidentemente, e se dovesse essere approvato velocemente, a questo punto è verosimile immaginare che a settembre avremmo i primi decreti attuativi. I decreti attuativi naturalmente devono essere approvati, devono fare un passaggio parlamentare con pareri non vincolanti, devono passare al Consiglio di Stato, Corte dei Conti e poi vanno in gazzetta. Ci sono delle norme subito auto-applicative insomma, nel testo della delega, che non sono di minore importanza, per esempio il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici, oppure le semplificazioni che prevedono l'autotutela amministrativa, cioè dare certezza del diritto alle imprese che ottengono una concessione governativa sulla durata di questa concessione, sul fatto che non possa essere sospesa in caso di diciamo vizi procedurali o come dire, infrazioni gravi che sono state commesse. Per cui alcune misure sono subito applicative, altre appunto abbisognano di un passaggio attuativo che avrà dei tempi di qualche mese. Oh, allora andiamo ad analizzare, tu già citavi il fatto del silenzio assenso in caso di contese tra amministrazioni centrali, sarà è un tetto per ottenere il sì, massimo 30 giorni che diventano 90 giorni in materia di ambiente, cultura e sanità, in modo che se poi non è arrivata una risposta alla pubblica amministrazione, tu vai avanti, il silenzio è considerato un assenso, questo per snellire. Andiamo invece sui provvedimenti che forse sono più strutturali o più epocali. Allora, i dirigenti della pubblica amministrazione, se ho ben capito, diventeranno licenziabili se valutati negativamente, ma pur di non essere mandati via potranno optare per il dimensionamento? E gli incarichi comunque non sono più a vita, diciamo. Sì, allora qui diciamo le novità forti sono almeno due, cioè si istituisce un ruolo unico per la dirigenza, cioè ci sarà un ruolo dei dirigenti dello Stato, un ruolo dei dirigenti delle regioni e uno per quelli degli enti locali, no? Nei dirigenti dello Stato, per esempio, confluiranno indistintamente agli attuali dirigenti dei quadri organici dei ministeri, della Presidenza del Consiglio, degli enti pubblici non economici e di tutte le agenzie. In questi ruoli unici sono previsti incarichi con un termine di 4 anni più 2 rinnovabili una volta sola. Al termine di questo diciamo primo ciclo di incarico è previsto che tu rientri in questo ruolo unico e chiedi, partecipando a un interpello, una nuova collocazione. In questo passaggio c'è una valutazione sulla tua diciamo performance gestionale e manageriale, insomma, e almeno così dovrebbe essere, e questo secondo ulteriore incarico, questo passaggio di carriera, in qualche modo viene misurato anche sulla base dei risultati che hai conseguito nella prima parte nel primo incarico. Certo. Naturalmente è una costruzione abbastanza complicata e anche abbastanza difficile da applicare, ci sono pareri di costituzionalità piuttosto articolati, per cui questo è uno degli aspetti della riforma più sfidante, se vuoi, ma anche più difficile da realizzare. Ascolta, ne parliamo anche dopo il GR24, perché in effetti a me, per esempio, lascia un po' perplesso che non vi sia più una soglia per i concorsi pubblico impiego, una soglia sotto del voto di laurea sotto la quale si è fuori dalle selezioni pubbliche. Comunque ne parliamo dopo il GR24. Resta con noi Davide. A chi continua a contestare i dati sull'evasione che non sono miei, prometto che domani a questo punto faremo una puntata anche sulle... Nessuno ha detto che l'evasione sia tutta delle partite IVA, però se si prendono i versamenti anche contributivi, ma ne parliamo domani, abbiate pazienza. Adesso c'è il GR24, poi torniamo sulla riforma della pubblica amministrazione e sul, visto che parliamo di tasse, anche sulla proposta del Presidente del Consiglio dove troverà le risorse. Focus Economia. Nove minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Davide Colombo, stavamo analizzando, non dico punto per punto perché ci vorrebbero intere puntate, insomma, ma i tratti principali di questa riforma della pubblica amministrazione, superata la parte dei dirigenti, che come tu ricordavi è bella come principio, poi diventa difficilmente applicabile. Non ci sarà un voto minimo di laurea per i concorsi. Poi c'è tutto il capitolo, sempre sul pubblico impiego, chiamato licenziamenti facili. In realtà l'articolo 18 dovrebbe restare, se ho ben capito, però la differenza cos'è quando scatta un'azione disciplinare? Ma diciamo che in qualche modo una svolta all'iter di questa riforma su questo punto in particolare lo ha dato il famoso episodio dei vigili urbani di Roma, sì, che si sono messi in assenteismo di massa per San Silvestro. C'è una norma generale che dà un principio di delega al governo appunto per definire, diciamo, una procedura disciplinare con tempi molto certi e con l'obbligo di arrivare a un tipo di sanzione entro una entro un intervallo stabilito, per cui c'è una certezza almeno sulla carta che quando si apre una procedura sanzionatoria a questo punto si deve arrivare in fondo. Anche questa è una delle, appunto, delle caratterizzazioni nuove che sono entrate in questa riforma da lunghissimo iter, perché parliamo di una riforma che da più di un anno è in discussione, che ha imbarcato diversi oggetti che prima non erano previsti. Per esempio quello che citavi poco fa, il voto di laurea non vincolante per la partecipazione ai concorsi, è un emendamento proposto in sede di discussione alla Camera, sì, è stato accolto e passato, e si, come dire, rientra con qualche contraddizione, ma insomma rientra in un schema di ridisegno complessivo delle forme di accesso alla pubblica amministrazione. Per esempio una norma prevede l'unificazione dei concorsi, per cui si farà un concorso per entrare nelle amministrazioni centrali, uno per entrare nelle amministrazioni regionali e uno negli enti locali. In qualche modo si esce dall'attuale schema un po' ad arcipelago, oneroso tra l'altro, certo, oltre che dispersivo per chi si voleva candidare. Viene introdotto un criterio per cui si valuta con dei punteggi di merito coloro i quali hanno fatto dei contratti a termine nell'amministrazione e si valuta, ecco, questo un po' bilancia questa contraddittorietà del voto di laurea che non conta più per l'accesso a determinati concorsi, si dà un valore aggiunto a chi ha un dottorato di ricerca. Qui c'è da immaginare che appunto... ma già l'idea di un concorso unico a seconda del livello, cioè nazionale, regionale o comunale, è già un riordino, diciamo, anche se si poteva... Sì, è una razionalizzazione, appunto. Si poteva osare di più. Davide, c'è poi tutto il capitolo, diciamo, che potremmo chiamare degli accorpamenti, nel senso che abbiamo già letto del trasferimento al pubblico registro automobilistico, il PRA, del pubblico registro automobilistico dall'ACI al Ministero dei Trasporti, alla motorizzazione civile. Poi ci dovrebbe essere, se ho ben capito, il riordino delle forze dell'ordine con la scomparsa del corpo forestale e anche una maggiore selezione scure, dicono alcuni, sulle partecipate e sulle prefetture. Sì, allora sulle partecipate in particolare che è dentro questa delega uno dei capitoli che aveva in qualche modo affrontato l'ex commissario alla spesa Cottarelli, cioè qui si dovrebbe fare quello sfoltimento, diciamo i due grandi numeri di riferimento sono passare da 8.000 a 1.000 con sì. un risparmio di almeno un miliardo. Che già era previsto da Cottarelli nella spending review, cioè le 8.000 partecipate. Esatto. Le partecipate, l'idea... lo dico a tutti, sono quelle società in cui l'azionista di maggioranza o assoluto è l'ente locale, comune, provincia, regione o Stato. Prego. Esatto. L'idea è di partire da un criterio, cioè quelle che hanno un bilancio in squilibrio e cercare appunto di razionalizzare, incentivare il più possibile fusioni e accorpamenti per indurre a migliori economie di scala e quindi a migliori prestazioni di servizi e gestione delle spese di funzionamento e per arrivare appunto a una razionalizzazione che è importante, si è realizzata, bisogna vedere come andrà, perché questo criterio di delega prevede la come dire, riscrittura della regolamentazione delle società partecipate, così come quella dei servizi pubblici locali, con due nuovi testi unici. Mentre invece l'articolo 7, che è quello che prevede lo sfoltimento degli uffici periferici dello Stato, tra cui le prefetture, e che contiene anche la razionalizzazione delle camere di commercio, dovrebbe avere degli effetti un po' più immediati, quindi dal punto di vista procedurale più veloce. Per esempio, il taglio da 105 a 60 delle camere di commercio è verosimile, volendo che si determini anche entro il 2015, perché è una delega più semplice e anche perché potrebbe venire incontro un'auto riforma degli enti camerali che in qualche modo sì, abbiamo già visto un primo tentativo a Venezia, se non ricordo male, di sì appunto di... ecco, per cui diciamo che sono come dire misure di riordino che possono avere velocità diverse, per questo giustamente nelle relazioni tecniche la ragioneria non ha cifrato risparmi, certo, se non a consuntivo, ecco. È inutile anticiparli se non sappiamo i tempi. E tra l'altro nel riordino delle forze dell'ordine dovrebbe appunto scendere da 5 a 4, da quello che abbiamo capito il corpo forestale dovrebbe andare essere inglobato dai carabinieri, ma dal corpo dei carabinieri. Poi ci sarà anche la riorganizzazione delle autorità portuali. Detto questo, questa riforma della pubblica amministrazione, la legge diciamo delega, è divisibile in grandi diciamo macro gruppi. Uno è quello che citavamo all'inizio della riduzione dei tempi della burocrazia, quindi le pratiche dimezzate per le grandi opere, il silenzio assenso tra amministrazioni, la ghigliottina sui decreti e quindi rinvia provvedimenti attuativi e quant'altro. Poi c'è il fronte dell'accesso alla pubblica amministrazione, della valutazione della pubblica amministrazione, quindi dirigenti licenziabili o demansionabili, l'accesso ai concorsi. E poi c'è il tema, il terzo aspetto, quello delle partecipate, il riordino diciamo del non solo delle forze dell'ordine ma delle partecipate allo Stato, le prefetture, le camere di commercio. Ultimo aspetto di queste macro aree è quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione, Davide, esatto. In cui c'è sia la bolletta elettronica da pagare con gli SMS che il Freedom of Information Act italiano. Ma perché non le chiamano in italiano? Cioè la legge sul libero accesso alle informazioni, anche perché ACT da noi non esiste. Comunque, Davide. Da questo punto di vista il nostro provincialismo evidentemente non finisce mai, abbiamo sempre bisogno di etichettare con Jobs Act, legge sul lavoro, ma dai. Allora, esatto. La legge sul libero accesso alle informazioni, l'ultimo diciamo, capitolo è appunto questa maggior trasparenza e facilità nell'accesso con la pubblica amministrazione, no? Ecco, diciamo che l'oggetto più importante di questo capitolo sull'accesso dovrebbe essere quello del codice unico di accesso, quello che era stato definito dal Presidente del Consiglio il PIN unico con cui puoi accedere a diverse amministrazioni per avere dei servizi su domanda che possono essere erogati in via digitale. Allora, questo è un obiettivo che noi stiamo perseguendo dal 2005, cioè dal codice dell'amministrazione digitale, quindi da numerosi governi, non l'abbiamo ancora raggiunto perché evidentemente non è un obiettivo che si può raggiungere a costo zero. Dietro ci sono investimenti sulle tecnologie, sulle sistemi pubblici di connettività, sulla interoperabilità dei sistemi digitali delle diverse amministrazioni. Bisogna vedere se questa qui, se a questo punto, se questa ennesima riforma del codice dell'autonomia digitale in senso di una semplificazione e dopo una serie di esperienze pilota in alcune amministrazioni porterà effettivamente a una diffusione di questo PIN unico del cittadino. C'è un cronoprogramma ambizioso, abbiamo visto cronoprogrammi ambiziosi anche di altri governi su questo punto. Io su questo sono molto cauto, nel senso che francamente ho assunto un approccio un po' zen, finché non vedo non credo, insomma. Quando parli della pubblica amministrazione italiana, con massimo rispetto, l'approccio zen è il minimo, diciamo, è incluso nel pacchetto. Allora, grazie intanto a Davide Colombo del Sole 24 Ore. Questo vedremo quando verrà, ma non dovrebbero esserci novità, ripeto, al Senato. Questo, diciamo, è da solo un fronte importantissimo, perché le riforme strutturali di un paese passano sì col mercato del lavoro, dal mercato del lavoro, ma anche e soprattutto, vista l'Italia, dalla riforma della pubblica amministrazione, che non significa necessariamente licenziare, significa la capacità di valutare, di avere il merito, di avere maggiore efficienza, non significa neanche necessariamente tagliare i soldi. Un conto sono le spese correnti, e lì portare, per esempio, come dice Gutgeld, da 30.000 centri appaltanti a 30 già dovrebbe portare dei risparmi. Ma dicevo, un obiettivo molto ambizioso, visto che si scontra con uno dei Moloch di questo paese, la pubblica amministrazione, soprattutto nei suoi livelli dirigenziali. Ma il Premier nel fine settimana se n'è dato un altro, anche la riduzione fiscale, riforme in cambio di un calo delle tasse. Di questo parleremo dopo il traffico, perché al di là di chi ha detto Renzi lo fa per i sondaggi, a noi è sembrato, insomma, che sia un po' buttare la palla sempre il cuore oltre l'ostacolo, visto che ancora devi chiudere la riforma della pubblica amministrazione. Ma dopo il traffico. Focus Economia. Se le riforme andranno avanti, e io credo che andranno avanti, nel 2016 via tutte le tasse della prima casa, IMU e TASI, nel 2017 via una parte importante della tassa IRES, che è un bel colpo per gli imprenditori e per le aziende, nel 2018 scaglioni IRPEF e pensioni. È un patto che io propongo agli italiani. Se le riforme vanno avanti, noi saremo finalmente in condizione di abbassare di 50 miliardi le tasse nell'arco di 5 anni. Elimineremo da settembre molti carrozzoni pubblici, perché ancora lo spazio per fare quella che si chiama spending, cioè revisione della spesa, c'è. I numeri per riuscire a portare a casa questo risultato, continuando a abbassare il debito, perché altrimenti i nostri figli dovranno pagare le nostre colpe e non è giusto, ci sono a condizione che il Parlamento continui a lavorare con intensità. Oh, questo è l'annuncio fatto durante l'assemblea del PD e poi in questa intervista al TG2 dal Premier Matteo Renzi. Sulla spending review ci sono i margini per... No, deve ancora iniziare una spending review seria. Vedremo cosa porterà, però intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Mentre anche il presidente Confindustria Squinzi ha detto: sono convinto che il governo abbia fatto i conti, però la copertura per il calo delle tasse è meglio se ha detto meglio se arriva da una spending review che aspettiamo da tanti anni. Allora, è ovvio che siamo tutti favorevoli a una riduzione della pressione fiscale per chi le tasse le paga. Ha detto Renzi che entro sei mesi c'è un piano, diciamo, che da sei mesi che stanno studiando per ridurre le tasse di 50 miliardi. Ma la domanda è un'altra. Visto che prima parlavamo della riforma della pubblica amministrazione, che è piena di decreti attuativi, per cui sarà poi una battaglia su questo, sappiamo le resistenze. Non è mettere di nuovo troppa carne al fuoco, oppure in realtà l'idea che il governo si limitasse a implementare le riforme faceva perdere consenso al Premier, era troppo poco ambizioso e quindi si getta così il cuore oltre l'ostacolo, la meta oltre l'ostacolo? Perché insomma di carne al fuoco ne ha tanta ancora il governo da sistemare. Prego, Guido. Ne ha tantissima di carne al fuoco. Credo che i sondaggi effettivamente abbiano avuto un loro ruolo in questa scelta di annunciare una manovra da 50 miliardi di riduzione delle tasse, però credo anche che Renzi voglia dare un colpo d'ala alla sua gestione di politica economica, perché ritengo che lui sia nelle condizioni di dover fare delle scelte coraggiose a questo punto. Non c'è più margine per fare solo delle promesse e non dei provvedimenti pratici attuativi. E quindi credo che sul fronte delle tasse, che sappiamo è un punto dolente della nostra storia italiana, sia arrivato il momento in cui andiamo a vedere se davvero possiamo batterle in modo significativo. Sì, faccio notare una cosa, visto che prima parlavamo di evasione fiscale, che abbiamo un'agenzia delle entrate bloccata da una sentenza della, sì, della magistratura, ne abbiamo parlato a lungo anche con il tributarista che è riuscito a vincerla quella sentenza, per cui tutte le verifiche fatte non da dirigenti ma da facenti funzioni non sono valide, è tutto bloccato e quindi l'agenzia delle entrate sta operando a regime ridotto, ridottissimo. Sì. Ed è un fronte, per cui lì non si capisce bene che cosa il governo voglia fare per contrastare l'evasione fiscale. Dall'altro, molti sono rimasti sorpresi sull'ipotesi di ridurre la TASI, la tassa sulla casa. Perché, ma non tanto per un ragionamento da destra o di sinistra, questo mi interessa poco, perché dicono: ma attenzione, quella è l'unico pezzetto di patrimoniale, so che è odiatissima, da tutti è odiata, chi ha una casa non ama pagare la TASI. E i risparmi sarebbero di 400 euro a Torino, 390 in media a Roma, a Siena 350, e va fatta la riforma del catasto. Ma non è un po' contraddittorio un governo che ha rimandato la riforma del catasto per rendere più equa la TASI, poi dice che leverà la TASI, a questo punto la riforma del catasto non ho capito che tempi prenda, quando molti economisti osservano che quello era l'unico principio di patrimoniale in questo paese che ha, ripeto, l'evasione più alta di tutta Europa? Allora, quando l'IMU è stata introdotta dal governo Monti, ricordiamo tutti che Monti disse solo l'Italia in Europa non ha un'azione di questo tipo e è stata introdotta su indicazione anche della Commissione Europea. Poi però siamo andati al di là in termini di getto e abbiamo verificato che le tasse sono aumentate del 170% come dal passaggio della vecchia ICI fino all'IMU e alla TASI. E la TASI. E quindi il contraccolpo sull'edilizia, per esempio, è stato pesantissimo in termini di crisi, in termini di occupazione. Credo che qualcosa si possa fare ragionevolmente sulla prima casa, così come sui beni agricoli, che anche lì abbiamo visto degli aumenti di tassazione molto forte. E io credo che questa sia una strada su cui ci sia anche una larga convergenza in Parlamento. Sì. E ritengo che Renzi su questa possa avere delle carte da giocare, non sia contraddittorio. Per quanto riguarda il catasto, secondo me dobbiamo mettere in previsione dei tempi molto lunghi. Molto lunghi, anche perché l'effetto boomerang rischi di essere fortissimo lì. Esatto. Un'ultima domanda, Guido, questo diciamo, è un modo per spiazzare e superare a destra il centrodestra, cioè molti hanno fatto notare difficilmente alcune di queste proposte potrebbero non essere votate dal centrodestra, non dico che sia la riedizione del patto del Nazareno, perché ci mancherebbe, è molto lontano da questo, ma insomma isola la componente più a sinistra e non potrà non beccare il voto dalla parte diciamo, perlomeno quella più centrista del centrodestra? Ma direi che questo è scontato. Appena qualche giorno fa, per fare un solo esempio, il nuovo gruppo dei riformisti conservatori che fa capo a Raffaele Fitto, ex Forza Italia, ha presentato un programma che è praticamente lo stesso di cui ha parlato Renzi sabato mattina. Quindi un programma da 40 in meno miliardi di tasse, abolizione dell'IRAP e altri diciamo provvedimenti di carattere di diminuzione fiscale. Quindi Forza Italia, sappiamo che la posizione storica è abolizione delle tasse sulla prima casa, quindi è evidente che Renzi su questo ha spiazzato tutti, in particolare il centrodestra. Allora, staremo a vedere poi se arriveranno altri dettagli su questo. Intanto ringrazio Guido Gentili in collegamento con noi, editorialista del Sole 24 Ore. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'augurio comunque di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.